Non fatevi spaventare dal segno meno davanti ai numeri. Iniziate ragionando sul prodotto. Quali coppie di numeri lo generano? Una volta trovata la coppia giusta, pensate a quali segni devono avere i numeri affinché la loro somma sia meno 4.